le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Terremoto nel settore auto americano, la Casa Bianca giudica insufficienti i piani di rilancio di General Motors e Chrysler, l'amministratore delegato di GM si dimette. Brutta giornata per le borse europee, cali che superano il 3%. Cattive notizie anche dalle previsioni dell'Ocse, i paesi dell'area potrebbero perdere nel 2009 il 4,3% del PIL, è l'anticipazione dell'Outlook che verrà diffuso domani. Decapiteremo gli ostaggi entro domani, la minaccia dei ribelli islamici che hanno rapito tre operatori della Croce Rossa, fra cui un italiano, i sequestratori chiedono il ritiro dell'esercito. Quanto sono sicuri tunnel e gallerie in Italia, ha diffuso il rapporto ACI-ANAS. Ha spiato per anni le mail dei suoi dipendenti, costretto a dimettersi il numero uno delle ferrovie tedesche. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large che apriamo parlando di economia e soprattutto di settore auto. E sì, parliamo di quello che sta accadendo nelle ultime ore negli Stati Uniti, perché la task force designata dalla presidente Obama per la ristrutturazione dell'industria automobilistica ha tratto le sue conclusioni. E le conclusioni sono che per la Casa Bianca i due colossi, General Motors e Chrysler, non hanno proposto piani di rilancio tali da meritare l'aiuto dello Stato. Il presidente Barack Obama terrà un discorso alle 11 ora di Washington, le 17 in Italia. Andrea Malana, ospite in studio. Allora, che cosa è successo? Perché questo affondo di Obama nei confronti dei due colossi automobilistici? Buongiorno a tutti. Dunque, innanzitutto è un mese e mezzo che la task force di Obama sta trattando con i due colossi, appunto, per ottenere questa ristrutturazione come premessa per i fondi in più da concedere. Obama vuole essere sicuro che i fondi che concederà sono a buon fine, nel senso che nessuno dei due gruppi, cioè che entrambi i gruppi siano in grado di resistere e di prosperare, diciamo, fare utili una volta ottenuti questi aiuti, e che non tornino, diciamo, per esempio fra sei mesi a chiedere altri fondi. Proprio per questo ha giudicato che i passi compiuti finora sono insufficienti. Due sono i punti principali. Uno è la trattativa con i sindacati, da cui sia GM che Chrysler dovrebbero ottenere di più in termini di rinunce sui fondi pensione, sull'assistenza sanitaria e sui salari. E secondo punto fondamentale è il rapporto con obbligazionisti e creditori. Entrambi saranno costretti a rinunciare a gran parte dei loro crediti o a convertirli in parte in azioni. Tutto questo, Andrea, in che condizioni mette Fiat, che con Chrysler ha di fatto sottoscritto un accordo? Beh, per Fiat la svolta è interessante. Washington ritiene che Chrysler non possa farcela da sola. Questo per Fiat è una grande opportunità, perché è riconosciuto dall'amministrazione che, appunto, l'alleanza con Fiat è l'unica possibilità di sopravvivenza, però comporta per Torino anche una responsabilità in più, e Chrysler ha un mese di tempo a questo punto per negoziare con gli italiani ed entrambe ancora col governo, in modo da definire un'alleanza che sia in grado, appunto, di funzionare nel lungo periodo. Probabilmente Washington chiederà a Fiat anche un maggiore impegno, sia in termini manageriali che forse anche in termini finanziari. Insomma, l'amministrazione di Barack Obama sta ponendo dei paletti a questi colossi automobilistici, ma secondo te riusciranno effettivamente a rispettarli? Insomma, il rischio fallimento è evitabile o no? Beh, intanto l'amministrazione ha evidenziato che è ipotizzabile, nell'ambito di questo processo, la cosiddetta pre-package bankruptcy, cioè un fallimento pilotato che nel giro di qualche settimana porti a, in sostanza, strappare a tutte le parti in causa, dipendenti, obbligazionisti, eccetera, le concessioni necessarie e far ripartire l'azienda. Soprattutto per Chrysler, nel caso in cui l'alleanza con Fiat non vada in porto, sembra invece di capire che l'ipotesi del fallimento definitivo non è totalmente esclusa. Andrea, in Francia, tra l'altro, oggi è stato estromesso ieri Christian Streff, che è il presidente del comitato di sorveglianza di Peugeot Citroën. Questo ci può portare anche ad una sorta di parallelo su come si stanno comportando gli Stati Uniti e come si sta comportando l'Europa sul fronte della crisi dell'auto. Certo, in entrambi i casi è stato decisivo l'intervento del governo. Anche in Francia Streff ha in sostanza perso il posto, perché Sarkozy, che ricordiamo ha concesso sia a Peugeot che a Renault dei grossi prestiti il mese scorso per poter continuare a superare la fase di crisi, ha preteso che entrambe le aziende non effettuino tagli e non chiudano stabilimenti in Francia. Streif si era opposto a questa, diciamo, richiesta del presidente, rivendicando un'autonomia manageriale, e probabilmente in gran parte ha pagato questa sua opposizione con il licenziamento. A questo punto spetterà al suo successore gestire la crisi, e gestire tra l'altro le trattative che sappiamo erano in corso con Fiat, ma anche con altre costrutture, per un'alleanza in Europa. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire meglio quanto sta accadendo appunto negli Stati Uniti nel settore dell'auto, e su questo sentiamo il commento del direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli. Il mondo dell'auto è in subbuglio dopo l'uscita del presidente di General Motors, Wagoner, e il licenziamento sempre ieri del numero uno di Peugeot, Stryfe. Il primo lascia alla vigilia di un nuovo aiuto del governo americano a GM e Chrysler, 22 miliardi di dollari dopo i 16 già concessi, e soprattutto dopo un ultimatum: o cambiate modelli o niente soldi del contribuente. General Motors ha cominciato cambiando presidente, ma dovrà essere rivoluzionata un'intera filosofia produttiva, con auto più piccole ed ecologiche. E l'intesa tra Fiat e Chrysler va nella direzione giusta. Il caso francese invece segnala anche quanto sia complesso il rapporto fra aziende in crisi e governi. Se gli stati intervengono e mettono i soldi dei contribuenti, è giusto che dettino delle condizioni. Assai discutibile che scelgano direttamente i manager, perché la fedeltà al governo finisce per far premio sui meriti e sui diritti degli azionisti. E poi c'è un tema molto delicato. L'auto va salvata, non c'è dubbio, ma così si impedisce la naturale selezione delle marche migliori. Ma quando soffia il vento della crisi, questi sono pensieri proibiti. E a proposito di vento della crisi, Deborah Rosciani, giornata particolarmente difficile in borsa. Sì, diciamo che l'impressione è che i mercati azionari non aspettassero altro che notizie di questo tipo per poter permettere agli investitori di prendere profitto dai rialzi recenti. E infatti sono bastate le notizie dal settore auto negli Stati Uniti stamattina per far partire molto male la seduta in Asia e far andare altrettanto male anche l'Europa. Parigi perde il 2,36%, tra l'altro i titoli delle case automobilistiche francesi ovviamente perdono lo stesso parecchio. Renault sta scendendo dell'8,66%, Peugeot del 6,94%, Francoforte perde il 3,15%, Londra meno 1,91%, e da stamattina la peggior piazza d'Europa è Milano, che perde il 3,83% sull'S&P MIB. Scendono pesantemente i titoli bancari, ma il peggior titolo è proprio Fiat, in calo del 7,64% in questo momento. È tutto. Grazie Deborah Rosciani, vi ricordiamo come sempre gli ulteriori aggiornamenti di borsa alle 13:30. Ora andiamo invece nelle Filippine. Andiamo nelle Filippine dove i ribelli islamici del gruppo di Abu Sayyaf, che hanno rapito 3 volontari della Croce Rossa Internazionale, hanno minacciato di decapitarli. Un ultimatum secco, quello rivolto dai ribelli islamici del gruppo di Abu Sayyaf all'esercito filippino: se entro le 14 di domani, ovvero le 8 in Italia, l'esercito non si sarà ritirato da 14 villaggi della provincia di Sulu, i 3 ostaggi della Croce Rossa Internazionale, tra cui l'italiano Eugenio Vagni, saranno decapitati. I volontari della Croce Rossa erano stati rapiti il 15 gennaio scorso. Assieme a Vagni anche lo svizzero Andreas Notter e la filippina Mary Jean Lacaba. Nell'annunciare l'ultimatum dei rapiti, il ministro dell'interno filippino ha subito messo le mani avanti. È impossibile soddisfare la loro ultima richiesta di completare il ritiro entro 24 ore. Sarebbe difficile anche in 48. Ci troviamo nella situazione, ha continuato il ministro, in cui anche se volessimo non potremmo farlo. Cristina Carpinelli, GR24, il Sole 24 Ore. E dalle Filippine al Pakistan, perché questa mattina c'è stato un attentato. Un gruppo di terroristi mascherati, alcuni dei quali vestiti da poliziotti, hanno fatto irruzione nella scuola di polizia di un quartiere periferico della città di Lahore, che è la seconda città per importanza e per numero di abitanti del Pakistan. Al momento si contano 26 morti. Tra l'altro, nelle ultime ore c'è stata anche un'irruzione delle teste di cuoio. Appunto. Sì, e a quanto pare tutti i terroristi sono stati arrestati. Sta arrivando proprio in questi minuti la conferma dal ministro dell'interno del Pakistan, Rehman Malik. I corpi speciali hanno fatto irruzione nella scuola di polizia, facendo così terminare l'assedio. Ora invece in Italia con la cronaca, perché ci sono anche alcuni esponenti del clan camorristico dei Casalesi fra le persone arrestate oggi, una quarantina in tutto, in un'operazione antidroga. Ogni mese importavano e spacciavano fiumi di cocaina ed hashish sul litorale Domizio, la costa casertana, diventata un vero e proprio market della droga. Con un blitz scattato alle prime ore dell'alba nelle province di Caserta e Napoli, ma anche a Milano, Ferrara e Reggio Emilia, i carabinieri di Mondragone hanno arrestato 38 persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata ad importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti aggravate dal metodo mafioso. Alcuni dei destinatari dell'ordinanza fanno parte del clan dei Casalesi, tra cui Alessandro Cirillo, detto sergente, killer del gruppo Setola e guardaspada del boss Giuseppe Setola. A gestire il traffico sul litorale Domizio era una donna, Angela Incandela. L'operazione denominata Matriarca, coordinata dalla DDA di Napoli, ha interessato soprattutto i comuni di Castel Volturno, Mondragone e Giugliano in Campania. Nel corso dell'indagine erano già stati sequestrati complessivamente 45 kg di sostanze stupefacenti e circa 10.000 euro in contanti e titoli, nonché fucili e pistole mitragliatrici, ed erano state arrestate in flagranza di reato 26 persone. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Andiamo a Firenze invece adesso per una seduta del Consiglio Comunale che si preannuncia piuttosto tesa. Deve essere conferita la cittadinanza onoraria a Beppino Englaro. Ubaldo Cianciulli. Buongiorno, è appena terminata qui a Firenze nel Sperone del 200 la cerimonia di conferimento dell'onorificenza della cittadinanza onoraria a Beppino Englaro, che è stata accompagnata anche dalla consegna del giglio d'oro dalle mani del Presidente del Consiglio Comunale Eros Curcolini. Una cerimonia che è stata accompagnata comunque non da poche polemiche. Innanzitutto ricordiamo che questa iniziativa era stata voluta dal consigliere comunale del Partito Socialista Alessandro Falciani, è stata votata in Consiglio Comunale in un primo momento, nonostante ci fosse stato un parere negativo da parte del sindaco Domenici, che aveva auspicato un altro tipo di riconoscimento nei confronti di Beppino Englaro. È stata comunque ugualmente votata la mozione e alla fine la cittadinanza onoraria è stata conferita a Beppino Englaro. Questa mattina c'erano diversi manifestanti, una sessantina di leghisti davanti all'ingresso principale di Palazzo Vecchio, che hanno protestato contro questa decisione, hanno cercato anche di entrare nella sala del Salone dei 200 dove si è svolta la cerimonia, mentre prima dell'inizio della cerimonia stessa i consiglieri dell'opposizione del centrodestra hanno lasciato gli scranni in segno di protesta. Presente anche il segretario nazionale del Riccardo Nencini, che ha detto: le decisioni delle istituzioni non si commentano, si rispettano, poi eventualmente si commentano. Una parola anche di Beppino Englaro, che da pochi minuti incontrerà noi giornalisti, ha detto che questa cerimonia, questa onorificenza e tutto, diciamo, l'iter che l'ha accompagnato rispetta il carattere di Eluana, ribelle anche l'onorificenza, l'iter che è stato seguito, e a Beppino Englaro è piaciuto molto che l'iniziativa sia partita da un uomo, da un consigliere comunale, piuttosto che dall'istituzione in senso stretto, in modo tale, ha detto Bettina, questo è stato, diciamo, un riconoscimento che va e che arriva direttamente dal popolo. Grazie allora Ubaldo Cianciulli, collegato con noi da Firenze. Noi ora parliamo di pausa pranzo. Sì, perché come ogni lunedì l'appuntamento è con il nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di cuoco, oggi vi porta a Roma in Campo dei Fiori, splendida piazza romana sempre molto affollata, dove da pochi giorni è aperto un nuovo locale che è già presente in altre piazze italiane, a Milano, a Torino, a Firenze, ma che apre anche in questo posto così affollato di Roma, appunto Campo dei Fiori. Qui si possono mangiare mozzarella pontina, mozzarella di pestum e vari altri prodotti a base appunto di bufala, oltre ad altri formaggi e a combinazioni con salumi e verdure. Si può mangiare anche frutta e si può chiudere con un dolce. Bene, si possono aggiungere anche un bicchiere di vino oppure della birra. Lo ripeto, OBK, Campo dei Fiori, Roma. Le 13 e 17 minuti, GR Extra Large. Nella prima parte abbiamo parlato del no dello staff di Obama ai piani di rilancio di GM Chrysler. Abbiamo parlato di borse che sono in netto calo anche nella giornata di oggi. Abbiamo parlato della minaccia dei terroristi delle Filippine di Abu Sayyaf di decapitare gli ostaggi, tra cui un italiano. E poi abbiamo parlato anche della concessione della cittadinanza onoraria di Firenze a Beppino Englaro. Ora ci occupiamo di lavoro. E sì, ci occupiamo di lavoro perché a Roma da ieri e fino a martedì, fino a domani, sono riuniti i ministri del lavoro del G8 con i rappresentanti dei sindacati e delle imprese. Si discute delle conseguenze che la crisi sta avendo sul mercato del lavoro. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Crescita economica, crisi internazionale, sue ricadute sull'occupazione al centro di questa seconda giornata di lavoro del Social Summit. A far discutere in particolare le anticipazioni macroeconomiche annunciate dal segretario generale dell'Ocse, Angel Gurria, anticipazioni che troveranno domani la loro conferma nei documenti ufficiali, nell'Outlook. Secondo Gurria, i paesi dell'area Ocse potrebbero perdere nel 2009 il 4,3% del prodotto interno lordo. Ricordo che per l'Italia pochi giorni fa il centro studi di Confindustria ha stimato un PIL 2009 -3,5%. Non andrebbe meglio per il tasso di disoccupazione che, sempre secondo l'Ocse, nel 2010 potrebbe avvicinarsi al 10% nella maggior parte dell'area in questione. Il dato si tradurrebbe in ben 25 milioni di persone che perderebbero il posto di lavoro. Dietro a questo trend ci sarebbe, come risaputo, la crisi internazionale. In particolare, a pesare di più sarebbe il crollo negli ultimi 8 mesi del commercio. Anche oggi però il nostro ministro del welfare Sacconi ha invitato ad un maggiore ottimismo e a prendere le stime per quello che sono. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo, continuiamo a parlare di lavoro con la conferenza stampa del segretario della CGIL Guglielmo Epifani. Paola Cavadi, che cosa ha detto e soprattutto cosa si attende per la giornata? Sì, buongiorno. In effetti siamo in attesa di sapere se ai lavoratori piace o no l'accordo separato sui contratti siglato tra governo e parti sociali, ma senza la CGIL. Il primo sindacato italiano infatti tra poco diffonderà i dati sull'esito del referendum promosso nei mesi scorsi tra i lavoratori e nelle piazze italiane. Intanto però Epifani, il segretario della CGIL, ha incontrato la stampa estera qui a Roma per presentare le ragioni della manifestazione del 4 aprile. La CGIL manifesterà per chiedere al governo di guardare in faccia la crisi. Bisogna, ha detto Epifani, che l'esecutivo cambi politica economica e sociale. Esiste una sproporzione tra gli aiuti alle banche, ha aggiunto Epifani, e quelli destinati alle categorie svantaggiate. Il rischio, ha detto, è che si produca una beffa sociale. Ma sentiamo le parole di Epifani. Come voi sapete, il nostro paese, che ha un debito pubblico molto alto e quindi ha dei margini limitati di manovra, ha però sostanzialmente investito per affrontare la crisi non più di 16 miliardi di euro, dei quali 12 destinati a quell'operazione di prestito oneroso nei confronti delle banche. Quindi per tutto il resto, rilancio della domanda, rilancio dei consumi, intervento sulle fasce che hanno più socialmente bisogno, si risolve in poco più di 3 miliardi e 8, 3 miliardi e 9. Una cifra assolutamente non utile. E dunque sabato prossimo arriveranno a Roma lavoratori e lavoratrici da tutta Italia, sarà una manifestazione grande, bella e soprattutto, ha specificato Epifani, pacifica. Si concluderà al Circo Massimo, proprio come avvenne nel marzo del 2002, quando la CGIL mobilitò 3 milioni di persone in difesa dell'articolo 18. E da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Paola Cavadi, noi continuiamo a parlare di lavoro, anzi di donne e lavoro, perché questa mattina se ne sta parlando anche qui nella sede del Sole 24 Ore, a Milano, al terzo forum Cultura d'Impresa. Perché la risalita dalla crisi può passare anche dalle donne. Ne è convinta ad esempio Kathleen Kennedy, erede di una famiglia americana che non ha bisogno di presentazioni, naturalmente, molto attiva nella campagna elettorale di Obama. L'ha intervistata Anna Marino. Well, we have a very serious economic crisis. Siamo di fronte ad una crisi economica molto seria e fortunatamente abbiamo Barack Obama come presidente, che ha guidato molto bene la sua squadra e sta confrontandosi con le difficoltà attraverso un pacchetto di aiuti di vero stimolo per l'economia e sta anche riformando le banche. Ci stiamo allontanando dal tempo in cui non avevamo regole e abbiamo capito che abbiamo bisogno di molte regole. Siamo stati avidi ed ora c'è bisogno di maggior controllo. E per quanto riguarda gli aiuti di Stato al settore automobilistico? Ciò che Obama ha detto è che ci dovranno essere sacrifici per chi vende, produce auto e chi lavora nel settore, per chiunque vi sia coinvolto. Il settore auto è veramente importante per gli Stati Uniti, ma non è stato competitivo negli ultimi 30 anni e per il comparto ci sarà una grande ristrutturazione. C'è una qualche ricetta per il futuro? Credo che la ricetta sia innanzitutto agire, avere speranza, avere pazienza. Ci siamo trovati in questo problema diventato così grande anno dopo anno e tutto non andrà a posto da un giorno all'altro, mi spiace dirlo. Quale può essere il contributo delle donne per uscire dalla crisi? Ciò che è accaduto negli ultimi 10 anni è dovuto a uomini che rincorrevano solo il potere senza nessun equilibrio. Quello di cui abbiamo bisogno bisogno sono invece donne che sanno prendersi cura dell'ambiente, che sanno prendersi cura della famiglia. Le donne sono molto più equilibrate ed è per questo che abbiamo bisogno di più donne in politica e negli affari. In tema di politiche per le donne, come vede l'Italia? La mia impressione è che l'Italia ha ancora tanta strada da fare. Credo che l'Italia non abbia idea di come siano le donne al potere. Per lungo tempo si è parlato di quanto le donne fossero belle e avete una grande industria della moda, ma c'è ancora la sfida da affrontare per vedere come sono le donne davvero al comando. Ed è importante tanto per il paese quanto per come le donne vedono se stesse. E avete sentito Kathleen Kennedy che commentava appunto la politica di Obama e di Barack Obama. C'è la prima intervista europea, almeno ad un quotidiano europeo. Giulia Crivelli, chi è Buongiorno. Che ne parla? Sì, è una cosa, il Financial Times ha annunciato questa intervista già sull'edizione di sabato con una pagina intera. In effetti è US President's First European Interview. In perfetto stile Financial Times, queste non sono come intendiamo noi, quasi mai domande e risposte. È rarissimo che sia domanda e risposta, tanto più che sono stati tre i giornalisti del Financial Times a fare questa lunga chiacchierata con Obama. La foto pubblicata in prima è un Obama sorridente, rilassato per quanto può esserlo, forse un po' ingrigito, come abbiamo già visto da altre foto. Il tema naturalmente è quello dell'Europa. Quello che ci tiene Obama a lanciare come messaggio è: non voglio assolutamente che ci sia una rottura tra gli Stati Uniti e l'Europa. Si è parlato di protezionismo, voglio tranquillizzare tutti, non è questa la strada che vuole percorrere la mia amministrazione. È chiaro che per certi beni cercheremo di incoraggiare a comprare americano quando possibile, ma del resto lo fate anche voi, incoraggiando a volte a comprare cose made in Europe, ma non è protezionismo, non vuole esserlo. Quanto a vertici come il G7, il G8 e il G20, naturalmente, che nei giorni passati si è detto ma non servono più, Obama invece continua a sottolineare quanto sia importante che ci si continui a parlare, del resto lo ha sottolineato, lo ha dimostrato anche con queste aperture verso Teheran che sarebbero state impossibili nell'amministrazione precedente. Quindi il dialogo prima di tutto, questo è il messaggio che Obama vuole lanciare anche agli europei. Giulia, in apertura abbiamo parlato delle questioni dell'auto, del settore dell'industria dell'auto. Naturalmente i giornali francesi oggi vi si concentrano, perché insomma lì le notizie di oggi li riguardano da vicino. Sì, Peugeot Citroën, che è la seconda azienda automobilistica europea, non in questo momento è senza un capo, perché Christian Streif durante la notte è stato ousted, scrive Financial Times, licenziato, scrive Les Echos. I problemi della Peugeot erano noti, c'è stato anche un po' di polemica su alcuni bonus che aveva ricevuto e sullo stipendio che aveva ricevuto questo signore, benché naturalmente l'azienda, come tutte le aziende automobilistiche, non navigasse in acque particolarmente serene. Ora probabilmente il sostituto sarà Philippe Varenne, che viene da un gruppo siderurgico, quindi comunque un manager dell'industria, e naturalmente i problemi da risolvere sono tanti. La strada, scrive Les Echos, non può naturalmente passare soltanto per gli incentivi, come sta succedendo in Germania, ma anche in Italia, ma in generale in Europa, cioè è l'intero settore automobilistico che deve ripensarsi. Business Week invece che cosa ci propone? Questa è una copertina tutta dedicata a queste classifiche. Agli americani piacciono tantissimo le classifiche. Qui sono le 50 aziende migliori, nel senso ci sono i best performers, cioè sono quelli non tanto che hanno avuto magari il fatturato più alto, ma magari hanno il rapporto migliore tra fatturato e utili. E la cosa interessante è che in queste 50 ci sono molte piccole, ci sono naturalmente anche colossi come Pepsi, Google, Coca-Cola, però in cima a questa classifica c'è un'azienda attiva nelle biotecnologie che si chiama Gilead Sciences, nei farmaci quelli personalizzati, che si pensa potrebbero essere il futuro. In questo momento si sta occupando soprattutto di HIV, del virus dell'AIDS. La cosa curiosa, se vogliamo, è che di tutti questi personaggi che vengono analizzati uno per uno, i capi di queste aziende, vengono fatti anche dei ritratti, sono dei ritratti bellissimi, dei dipinti a olio, e sono firmati da un artista italiano che è Andrea Ventura, quindi non c'è nessuna azienda italiana tra queste 50, però c'è una piccola presenza italiana. Bene, abbiamo un piccolo, diciamo un illustratore da esportazione, mettiamola così, che per fare fortuna forse ha dovuto lasciare l'Italia a questo punto. Grazie Giulia Crivelli anche per oggi, buona giornata. La Casa Bianca ha giudicato insufficienti i piani di rilancio di General Motors e Chrysler. Detta le condizioni per gli aiuti pubblici, l'amministratore delegato di GM si dimette. Ed è una brutta giornata per le borse europee, trainate al ribasso proprio dal settore auto e dalle banche, meno 3% in media su tutti i listini. I paesi dell'area OCSE potrebbero perdere nel 2009 il 4,3% del PIL, è l'anticipazione dell'outlook di domani. Decapiteremo gli ostaggi entro domani, e la minaccia dei ribelli islamici delle Filippine che hanno rapito 3 operatori della Croce Rossa, fra cui un italiano. I sequestratori chiedono il ritiro dell'esercito. Attacco ad una scuola di polizia nella seconda città del Pakistan, un gruppo di jihadisti uccide 25 persone. Solo un terzo delle gallerie italiane è sicuro, contro i 3/4 del resto d'Europa. È stato diffuso il rapporto ACI-ANAS. Ha spiato per anni le mail dei suoi dipendenti, costretto a dimettersi il numero uno delle ferrovie tedesche. Veniamo ora a delle dichiarazioni che sono state fatte questa mattina dal presidente della Camera Fini, che si trovava a Bagheria, ha parlato ai ragazzi che hanno partecipato alla cerimonia conclusiva dell'anno accademico del Parlamento della Legalità. Simone, che cosa ha detto Fini? Ha detto che la mafia è una dittatura che può togliere la vita, la libertà, può cancellare la dignità delle persone e dei popoli. Come si fa contro le dittature? Ha detto Fini, bisogna ribellarsi contro la mafia. Le armi sono la legalità e il rispetto delle leggi, ma ha parlato anche di quel che succede alla Camera, ha detto non ci sono mafiosi alla Camera, non ci sono coloro che la difendono, non ci sono coloro che hanno compiacenze. E Fini è stato naturalmente uno dei protagonisti in questa 3 giorni di congresso che ha dato vita al Popolo della Libertà. E allora ripercorriamo i momenti salienti e i temi trattati in questo congresso. Arrivano accompagnati dallo stacchetto musicale, meno male che Silvio c'è, il leitmotiv della 3 giorni alla Fiera di Roma, stacchetto in versione strumentale in una kermesse dove mancano ancora l'inno e le bandiere del nuovo partito. Ma i delegati del Popolo della Libertà non si lasciano scoraggiare dalle difficoltà, prima tra tutti quella dei parcheggi, dove saranno anche le multe a fioccare in libertà. Il Popolo di AN Forza Italia guarda con entusiasmo all'apertura dei lavori, come racconta al microfono di Paola Nania. Ovviamente le aspettative sono moltissime, ci si chiede come funzionerà, se funzionerà bene, noi ce lo auspichiamo anche perché comunque un grande partito può avere anche varie anime. Un po' di nervosismo però c'è ed è quello di AN, tanto che Maurizio Gasparri litiga con i giornalisti che gli chiedono se non c'è il rischio che Alleanza Nazionale finisca inglobata in Forza Italia. Ma intanto ci si prepara all'inizio, breve introduzione di Anna Grazia Calabria, la più giovane deputata del Popolo della Libertà, seguita dalle testimonianze di 4 giovani che inneggiano a Silvio come Giada. Un'emozione immensa perché ho assistito e ho partecipato attivamente ad un momento storico importantissimo. Il congresso entra poi nel vivo con il discorso di apertura di Silvio Berlusconi, che termina in perfetto sincronismo televisivo una manciata dopo le 20. Non mancano i consueti attacchi che il Presidente del Consiglio rivolge all'opposizione. La sinistra non è mai mutata. Non sono cambiati. Ascoltateli parlare. Guardate i loro telegiornali pagati dallo Stato. Leggete la loro stampa. Non credono più in niente. Vorrebbero trasformare il paese in una piazza urlante che grida, che inveisce, che condanna. Arriva il secondo giorno e la giovane Anna Grazia Calabria viene sostituita da Iole Santelli, deputata esperta con alle spalle molte legislature. Arrivano anche le lacrime del ministro della funzione pubblica Renato Brunetta, emozionato per il lungo applauso della platea. Ma il momento più atteso è quello del discorso del presidente della Camera Gianfranco Fini, che puntualmente interviene in un parterre dove stavolta sventolano i tricolori. Fini chiede al premier una grande stagione di riforma e poi si lancia in una critica al disegno di legge sul testamento biologico appena approvato dal Senato. Siamo proprio sicuri, amici del Popolo della Libertà, che il testamento biologico approvato al Senato sia per davvero laicità? Perché quando si impone per legge un precetto si è più vicini ad una concezione da Stato etico che da Stato laico, ma ne discuteremo, perché la politica oggi deve essere fatta anche di discussioni. E so perfettamente che è una posizione minoritaria, ma è una posizione che forse può aiutare, o perlomeno una posizione che va compresa all'interno delle altre per fare un partito non solo plurale, ma un partito di contenuti. Una posizione che non trova consensi né in AN né in Forza Italia, tocca al Presidente del Senato Renato Schifani rispondere. laicità dello Stato non si può trasformare, secondo me, in omissione di responsabilità. La laicità dello Stato deve essere presente in tutte le nostre scelte, ma io ritengo che sia responsabilità di uno Stato di intervenire tutte le volte in cui si rende conto che vi sono vuoti normativi da dover colmare. Terzo e ultimo giorno di congresso. Come da copione, Berlusconi viene nominato all'unanimità presidente del PDL e il premier prende la parola per chiudere il congresso. Gianfranco Fini non è in platea ad ascoltarlo e comunque Berlusconi non risponde ai quesiti posti dal presidente della Camera. Non una parola sul testamento biologico, mentre sulle riforme costituzionali Berlusconi mira soprattutto a rafforzare i poteri del premier. Il capo del governo non può né nominare né revocare i ministri come invece fanno i suoi colleghi europei. In Italia, ahimè, il Presidente del Consiglio ha solo poteri finti. Questa è la verità ed è per questo che, così com'è, il governo non può intervenire con immediatezza e lo Stato non può funzionare. Il Presidente del Consiglio promette che il governo porterà il Paese fuori dalla crisi e, malgrado le proteste dell'opposizione, lancia comunque la sua candidatura alle europee, una candidatura di bandiera. Il primo congresso del Popolo della Libertà si avvia alla chiusura e Berlusconi affida alla platea il compito da svolgere. Vi nomino quindi tutti missionari di libertà. Elisabetta Fiorito, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. In questi giorni molto si è detto del modo di porsi di Silvio Berlusconi, dall'abbraccio con Fini ad altri gesti simbolici. È da poco uscito in libreria un libro, appunto, che ha fatto parlare di sé prima ancora della pubblicazione. Parliamo del Corpo del Capo, scritto da Marco Belpoliti e pubblicato da Guanda. È una sorta di analisi sull'uso che il leader del centrodestra ha fatto della sua immagine nel corso degli anni e di quanto questa abbia contribuito al suo successo politico. Un'analisi che però non tocca quasi per niente la televisione, prende in considerazione soprattutto le fotografie. E allora tu, Simone, hai intervistato l'autore, appunto Marco Belpoliti, e siete partiti appunto dallo spiegare il perché di questa scelta. Sentite un po'. Intanto ci sono diverse cose che lo suggeriscono. Prima di tutto l'uso che Berlusconi ha sempre fatto della fotografia fin dagli anni 70, quando era un sconosciuto imprenditore edile che costruiva anche prima di Milano 2 e Milano 3 e invitava nella propria magione, nella propria casa ad Arcore, il fine settimana, i fotografi per farsi fare dei ritratti, insomma dei ritratti di se stesso, della famiglia. Sono tutte fotografie che poi noi abbiamo visto, e qui la ragione per cui la fotografia è importante, nel 2001 in questo album che si chiama Una storia italiana, che milioni di persone hanno ricevuto a casa propria, una sorta di fotoromanzo, di Bibbia dei semplici o dei poveri, dove viene raccontata tutta luce, senza nessuna ombra, attraverso le fotografie, le istantanee e anche soprattutto le istantanee della famiglia, quelle insomma che non facciamo quasi mai vedere agli estranei, che teniamo soltanto per gli intimi, per gli amici, insomma per i conoscenti stretti. Veniva raccontata la storia di Silvio Berlusconi. Che impatto ha tutto questo sul successo di Silvio Berlusconi, sul successo politico e carismatico di Berlusconi? Un impatto notevolissimo. Queste fotografie ci raccontano la storia di uno qualunque, uno di noi che è diventato qualcuno. Io ho usato solo immagini ufficiali, immagini già pubblicate, però mettendole, sono soltanto 21, una dietro l'altra, viene fuori un ritratto a tutto tondo di Silvio Berlusconi, in cui appunto l'aspetto principale è l'esibizione dell'intimità, della non separazione tra ciò che è privato e ciò che è pubblico. Stamattina c'è stato un grave incidente stradale all'interno della galleria Poderuzzo sulla A1 Milano-Napoli fra Calenzano e Barberino. Sono state coinvolte 5 auto, 2 hanno preso fuoco. Una persona purtroppo è morta. Le operazioni di soccorso sono state rese difficoltose dalla ridotta visibilità in galleria. E proprio la sicurezza delle nostre gallerie torna in primo piano nel giorno nel quale ACI e ANAS diffondono il consueto rapporto sulla sicurezza dei tunnel. Più della metà delle gallerie europee si trova in Italia, ma quanto a sicurezza siamo messi un po' male, perché il 78% dei tunnel testati in Europa è stato giudicato positivamente. In Italia la percentuale si ferma al 36%. Buongiorno Enrico Gelpi, presidente dell'ACI. Buongiorno a voi. Allora, Presidente, la possiamo considerare un'emergenza? È sicuramente un'emergenza, come anche purtroppo il fatto di cronaca di oggi dimostra. Noi abbiamo fatto questa iniziativa di monitoraggio dello stato delle gallerie, di alcune gallerie italiane, rapportato anche alle gallerie europee. E in effetti i risultati non sono molto soddisfacenti. E quindi questa è un'iniziativa che serve sia per monitorare, ma soprattutto per sensibilizzare chi poi deve decidere le priorità di intervento per l'urgenza e la necessità di mettere in sicurezza le nostre gallerie. Allora, in concreto, che cosa proponete per migliorare la situazione da subito, diciamo, dal breve periodo al medio periodo? Intanto è importante questa collaborazione con ANAS, che è il gestore, no, della rete italiana e quindi anche delle gallerie. C'è questa disponibilità a verificare quali sono le criticità e quindi fare un piano industriale per pianificare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quindi poi nel ricercare le risorse necessarie da parte del governo e del Parlamento. E grazie dunque ad Enrico Gelpi, presidente dell'ACI, Automobile Club Italia, per essere stato con noi. Buona giornata. A proposito di sicurezza stradale, c'è una proposta di legge che prevede una stretta sul codice della strada, per esempio prevede che siano abbassati a zero i limiti di alcol per i primi 3 anni di patente, limiti che verrebbero appunto ridotti a zero anche per chi trasporta merci o persone. La proposta è all'esame della Commissione Trasporti alla Camera, sentiamo il presidente di questa commissione, Mario Valducci, intervistato da Alessandro Milan questa mattina in 24 Mattino. Nel momento in cui un giovane incomincia a imparare a guidare con questo stile di guida, magari lo manterrà nel corso degli anni, anche perché lo 0,5 millilitri di milligrammi di tasso etilico previsto attualmente dalle norme in vigore è un tasso già molto molto rigoroso, che però induce moltissimi di noi a dire insomma 2-3 bicchieri cosa vuoi che siano. Invece su molti giovani soprattutto basta un bicchiere di vino rosso o una birra a far superare questo limite. E ora cambiamo decisamente argomento. Beh, musica che avrete riconosciuto. È morto a Los Angeles il compositore francese Maurice Jarre, autore di numerose colonne sonore di film, tra cui il tema di Lara, colonna sonora del dottor Zivago, appunto, quella che state sentendo, Lawrence d'Arabia e Parigi brucia. E ha firmato più di 150 musiche da film per grandi registi come Hitchcock, Visconti e Weyrell. Nel 1977 aveva scritto la musica per il Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Abbiamo parlato del settore auto e dell'andamento delle borse, abbiamo parlato della sicurezza dei tunnel italiani, abbiamo parlato del terrorismo che colpisce ancora una volta il Pakistan, ora ci occupiamo di Darfur. Ci occupiamo di Darfur perché al vertice della Lega Araba in corso a Doha in Qatar ci potrebbe essere un incontro singolare, quello fra il presidente sudanese Omar el-Bashir e il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. Incontro singolare visto che, lo ricordiamo, il Tribunale Penale che fa capo all'ONU ha chiesto per Bashir l'arresto per crimini di guerra, appunto, compiuti nel Darfur. Dobbiamo superare le tensioni provocate dal mandato d'arresto emessa dalla Corte Penale Internazionale nei confronti del presidente sudanese al-Bashir. Lo ha detto il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon di fronte ai capi di Stato arabi riuniti nel vertice di Doha in Qatar. L'intervento è stato preceduto da quello del presidente siriano Bashar Assad e del segretario generale della Lega Araba Amr Moussa, che entrambi hanno chiesto l'abrogazione della decisione del Tribunale dell'Aia. Intanto un al-Bashir sorridente, ripreso in continuazione dalle telecamere delle TV arabe, attende rilassato il suo turno per intervenire. Adil Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. In apertura vi abbiamo parlato delle dimissioni dell'amministratore delegato di General Motors. Ora parliamo di altre dimissioni eccellenti, quelle del numero uno delle ferrovie tedesche. Ma perché questa decisione? Lo chiediamo a Beda Romano, collegato con noi da Francoforte. Beda. Sì, Hartmut Medo, questo è il nome, è il presidente delle ferrovie tedesche, ha presentato oggi le proprie dimissioni. Lo ha fatto dopo una polemica che dura da mesi, ma l'ultima vicenda che ha fatto traboccare il vaso è stata un articolo di Der Spiegel, il settimanale tedesco, secondo cui da Deutsche Bahn avrebbe controllato le email di circa 80.000 dipendenti con l'obiettivo di controllare i loro rapporti epistolari con alcuni giornalisti. Questo scandalo non è il primo degli ultimi mesi, perché la Deutsche Bahn nel corso degli ultimi anni avrebbe anche messo a confronto i dati personali di 170.000 dipendenti con quelli di 80.000 fornitori della società. Meadow era riuscito finora a resistere alle pressioni per le dimissioni, aveva spiegato in più di un'occasione di non avere mai violato la legge e anche oggi in una conferenza stampa per la presentazione dei risultati, oltretutto piuttosto buoni per il 2008, Meadow ha spiegato di non avere violato la legge, di aver rispettato le norme, ma che non se la sente di rimanere al suo posto e ha deciso quindi di dimettersi. A questo punto il governo deve trovare un sostituto e non sarà facile perché la società è una grande società di logistica ormai. Grazie Beda Romano, dunque un caso che farà discutere. La Casa Bianca ha giudicato insufficienti i piani di rilancio di General Motors e Chrysler e dette le condizioni per gli aiuti pubblici. L'amministratore delegato di GM si è dimesso. Ed è una brutta giornata per le borse europee, trainate al ribasso proprio dal settore auto e dalle banche, meno 3% in media su tutti i listini. Decapiteremo gli ostaggi entro domani e la minaccia dei ribelli islamici delle Filippine che hanno rapito i 3 operatori della Croce Rossa, fra cui lo ricordiamo anche un italiano. I sequestratori chiedono il ritiro dell'esercito. C'è stato un attacco ad una scuola di polizia nella seconda città del Pakistan. Un gruppo di jihadisti ha ucciso 26 persone. Solo un terzo delle gallerie italiane è sicuro contro i 3/4 del resto d'Europa, è stato diffuso il rapporto ACI-ANAS. Ha spiato per anni le mail dei suoi dipendenti, costretto a dimettersi, come avete sentito, il numero uno delle ferrovie tedesche. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, curata e condotta da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Al coordinamento Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè. Il prossimo GR alle 15, GR Extra Large torna come sempre domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.